cominciamo dall'inizio. Comincia a raccontarci già qual era, diciamo, la situazione con la discarica prima dell'ampliamento e cos'è quello che invece deve essere, che cosa accadrà invece con l'ampliamento, quale sarà l'ulteriore aggravio per questo territorio. Sì, la discarica è aperta da circa 30 anni, diciamo, e le attività di contrasto che stiamo portando avanti ormai da 4 anni non sono neanche le prime, perché altri comitati formati sempre da compagni e compagne comunque di zona già insomma negli anni scorsi hanno fatto delle iniziative, dei forti blocchi nel 2003, quindi non è nuova a contestazioni, perché comunque è una discarica molto grande, conta 7 invasi, si comincia a contare dal numero 0 ed è praticamente la più grande di tutta la zona, dove conferiscono tutti i comuni dei Castelli Romani, quindi parliamo di 10 comuni. La cosa brutta, molto brutta, è che compare in una zona dove ci sono dei vigneti di vini DOC e ci sono altre coltivazioni agricole dove insomma anche molto molto note di zona, e quindi già per quello ha inquinato e contaminato sia l'aria ma anche le falde acquifere. Purtroppo gli ultimi dati che abbiamo riportano inquinamento di arsenico e di cloroformio nelle falde acquifere, quindi si capisce che anche per le aziende vinicole, ma non solo, per gli abitanti che abitano la zona, questa cosa diventa problematica, anche perché sia l'immagine che la vita del posto diventa abbastanza difficile da condurre. E sorge questa discarica a pochissime centinaia di metri dalle prime abitazioni. Infatti una delle contestazioni che abbiamo fatto al TAR si basa proprio sulla distanza che separa la discarica dalle case, che dovrebbe essere per i limiti di legge 200 metri, ma noi abbiamo portato i nostri, diciamo, geometri a fare dei rilievi ed è ben al di sotto dei 200 metri questa distanza. Invece i geometri dell'azienda hanno detto che la distanza è di 203 metri, ma insomma si capisce bene che si sta parlando di briciole sostanzialmente, non sono quei 3 metri in più o 3 metri in meno, cioè questa cosa dei 203 metri per noi è anche l'evidenza del fatto che la discarica dista pochissimo dalle prime abitazioni. Quindi da 30 anni queste popolazioni, Villaggio Ardedino, Valle Gaia, Montagnano, Cecchina, che sono tutti piccoli paesini e villaggi che stanno a sud di Albano ma che comunque risiedono e sono sotto il comune di Albano, si stanno vivendo questo inquinamento da più di 30 anni. Ora la Polverini ha fatto l'ennesima concessione alla Cricca dei Rifiuti, che è capitanata da Manlio Cerroni, imprenditore dei rifiuti laziale, nonché proprietario della discarica di Malagrotta, e ha concesso l'ampliamento di questa discarica, violando tutta una serie di cose, come i limiti paesaggistici, come dei limiti archeologici che ci sono imposti in zona, perché sono stati trovati anche reperti archeologici, e soprattutto la questione delle distanze che dicevo poco fa. Quindi ha permesso a Cerroni di costruire un altro ennesimo invaso, una buca diciamo di diverse centinaia di metri cubi, parliamo di campi da calcio, diciamo, tanto per capire dimensioni, più campi da calcio, diciamo all'ordine di grandezza di 5-6 campi da calcio come dimensione. E quindi adesso in questi giorni la buca è diventata attiva, diciamo dai primi di agosto ufficialmente, anche se hanno scaricato anche un po' prima, con un'ordinanza straordinaria della Polverini che ha concesso praticamente di sversare, mentre la buca veniva costruita, perché hanno impiegato dei mesi per scavarla, fare gli argini e anche tra virgolette coibentarla, anche se sulla coibentazione diciamo ci sono forti dubbi su come sia stata fatta. Questa buca è stata ultimata diciamo i primi di agosto, e per ultimarla la Polverini ha concesso a Cerroni anche di sversare rifiuti su degli invasi che sono il quarto e il quinto, quindi altre buche diciamo più o meno un po' più piccole di queste ma comunque di grandi dimensioni, che erano già chiusi, e di solito quando un invaso è chiuso e tombato, si dice in gergo, non si dovrebbe più toccare, perché c'è anche la pericolosità che insomma fuoriescano dei gas molto, molto inquinanti che si fanno generare nel sottosuolo. E quindi questa ordinanza ha permesso di sversare su questi invasi già chiusi da tempo per moltissimi mesi, e anche questo è uno dei punti sui quali noi abbiamo portato le nostre contestazioni ai tribunali, perché insomma era una cosa piuttosto ambigua. I primi di luglio, gli ultimi di luglio c'è stato un collaudo di questa discarica, che è stata una bella farsa, perché sono venuti i tecnici, tra l'altro il collaudo è stato fatto dai stessi tecnici dell'azienda che gestisce la discarica, della serie Oste come il vino praticamente. Quindi sono presentati lì e hanno fatto un collaudo farsa, senza verificare alcune cose fondamentali che insomma non ripeto, giusto per non tediare troppo gli ascoltatori e le ascoltatrici. Però il collaudo non è andato come doveva essere, c'erano anche i nostri avvocati, i nostri tecnici che non sono potuti entrare, non gli è stato concesso di entrare, di vedere cosa si faceva, però da chi c'è stato dentro e ci ha raccontato, insomma, sappiamo che non sono state fatte le verifiche del caso. Quindi ora la situazione è che c'è questa buca delle dimensioni di diversi campi da calcio che è ad oggi all'attivo, perché comunque con il tempo non siamo riusciti ancora ad ostacolarla, nonostante, diciamo, numerosi presidi fatti anche durante questi mesi estivi e alcuni cortei, e un ricorso al TAR pendente che si dovrebbe esprimere il prossimo 27 ottobre, cioè la prima udienza su questo ricorso fatto proprio sulla discarica. Quindi noi abbiamo proposto questo campeggio di 2 giorni, che ci sarà appunto sabato questo e domenica, il 10 e l'11 settembre, dove verranno affrontati principalmente temi riguardanti la discarica, ma anche la questione delle acque inquinate del territorio, che insomma è altrettanto grave. E in questi 2 giorni ci proponiamo di far convogliare le persone davanti proprio alla problematica che vivono i villaggi vicini, limitrofi, ma che è una problematica che invece che riguarda tutti i comuni dei Castelli Romani e non solo, e quindi farli confrontare direttamente con il problema, perché poi l'iniziativa, il campeggio si terrà a pochi metri proprio dalla discarica, su un terreno privato che ci viene fornito da una persona che insomma ci aiuta volontariamente in questo. E il sabato si spenderà soprattutto sulla questione delle acque, a partire dal primo pomeriggio, con assemblee, dibattiti e mostre, interventi anche di un chimico del coordinamento, e poi ci sarà una cena sociale la sera e concerti a seguire dopo cena. E stessa tempistica per quanto riguarda la domenica, nella quale invece ci dedicheremo soprattutto alla questione dei rifiuti, inceneritore e discarica, e quindi anche lì dibattiti con anche altri comitati che verranno da Fiumicino e Palidoro e anche da altre zone, diciamo sempre della regione Lazio, dove ci sono discariche come Guidonia per esempio, anche per cercare un po' di tessere le relazioni a livello regionale, perché poi le problematiche sono sempre le stesse. E quindi la domenica ci concentreremo sulla questione dei rifiuti, con sempre una cena a seguire e concerti serali, diciamo questo è il programma. Dico l'ultima cosa, sperando che la questione dell'inceneritore resti com'è, perché noi abbiamo vinto il ricorso al TAR lo scorso ottobre, però diciamo Cerroni e la sua cricca hanno fatto ricorso al Consiglio di Stato per cercare di superare l'amministrazione, cioè il Tribunale Amministrativo Regionale, e quindi forse tra ottobre e novembre si riesprimerà il Consiglio di Stato, e può anche darsi che la partita dell'inceneritore si riapra completamente, perché al momento è vinta, è ferma, ma se dovessero vincere il Consiglio di Stato si riaprirà completamente tutta la partita, perché lì inizieranno il cantiere probabilmente.